mondo di merda, non per quello che fai, non per quello che sei. Angela, resti sempre negli angoli, a nessuno frega chi sei, a nessuno frega che fai. Angela, a raccogliere fiori che non sapevi a chi dare e che appassivano in fretta. Hai ragione tu, e più guardo il mondo e più hai ragione tu, a rispettare solo quelli che vuoi tu, a camminare a piedi nudi sempre. E quando Angela ha chiesto di partire, ma nessuno di noi, ma nessuno le ha mai dato una lira. E quando Angela ha chiesto di morire, ma nessuno di noi, ma nessuno le ha prestato un pugnale. Volevamo normale, volevamo mischiare, non sapevamo cos'eri, eri talmente diversa, a te bastava gridare in faccia a tutti la verità per essere presa per pazza. Hai ragione tu, e più guardo il mondo e più hai ragione rispettare solo quelli che vuoi tu, a camminare a piedi nudi sempre sotto gli occhi di chi non sente. E quando Angela ha chiesto di capire, ma nessuno di noi, ma nessuno le ha saputo spiegare. E quando Angela di baciare, ma nessuno.